Libro di Giona. La parola del Signore fu rivolta a Giona, figlio di Amittai. Gli disse: «Su, va nella grande città di Ninive e proclama contro di lei che la loro malvagità è salita fino a me». Giona partì, ma per fuggire a Tarsis, lontano dalla presenza del Signore. Scese a Giaffa e, trovata una nave che partiva per Tarsis, pagò la sua quota e vi salì per andare con loro a Tarsis, lontano dalla presenza del Signore. Il Signore allora lanciò un forte vento sul mare e si levò una grande tempesta, sicché la nave minacciava di sfasciarsi. I marinai, spaventati, si misero a gridare ciascuno al suo Dio e lanciarono in mare gli oggetti che erano sulla nave per alleggerirla. Giona invece era sceso nelle parti più appartate della nave e, adagiatosi, dormiva profondamente. Il capo della ciurma, avvicinatosi a lui, gli disse: «Perché dormi? Alzati, invoca il tuo Dio, semmai Dio si prenda cura di noi e non abbiamo a morire». Intanto si dicevano l'un l'altro: «Venite, gettiamo le sorti per conoscere a causa di chi ci è venuta questa disgrazia». Gettarono le sorti e la sorte cadde su Giona. Allora gli domandarono: «Svelaci qual è la tua destinazione e da dove vieni. Qual è il tuo paese e qual è il tuo popolo?» Rispose loro: «Io sono un ebreo e temo il Signore, Dio del cielo, che ha fatto il mare e la terra». Quegli uomini ebbero gran timore e gli domandarono: «Che hai fatto?» Infatti, erano venuti a sapere che egli fuggiva lontano dalla presenza del Signore, come aveva svelato loro. Gli domandarono: «Che dobbiamo farti affinché il mare si calmi sopra di noi?» Il mare, infatti, diventava sempre più furioso. Rispose loro: «Prendetemi e gettatemi in mare, così il mare si calmerà sopra di voi. Riconosco infatti che per causa mia è venuta su di voi questa grande tempesta». Essi tentarono di ritornare a terra, ma invano, perché il mare diventava sempre più furioso sopra di loro. Allora invocarono il Signore e dissero: «Beh, Signore, che non abbiamo a perire noi a causa di quest'uomo e non far ricadere su di noi sangue innocente. Tu, infatti, o Signore, hai agito secondo il tuo beneplacito». Poi presero Giona e lo gettarono in mare. Allora il mare si calmò dal suo sdegno. Poi quegli uomini, presi da un grande timore del Signore, offrirono un sacrificio al Signore e fecero voti.